Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti e bentornati sempre su Liberi Dentro e Eduradio TV. Oggi è giovedì 22 luglio e io sono sempre con Antonella Cortese alla cura e conduzione di questo programma che parla al carcere e alla città. Ora in onda su Radio Città Fujiko, poi Teletricolore e Lepida TV canale 118. Antonella, che cosa potrebbero fare i nostri ascoltatori per sostenerci anche a settembre? Intanto ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti e vi chiedo di sostenerci ancora per un pochino. È ancora attivo il crowdfunding su www.ideaginger.it al nostro progetto Eduradio TV. Continuate a sostenerci con le vostre donazioni perché puntiamo a coprire anche tutto il mese di settembre e quindi il vostro aiuto è necessario. Grazie. Grazie. Mentre state cercando il nostro progetto su ideaginger.it, qualche notizia che riguarda questa volta il carcere di Modena. Vari aspetti da chiarire, leggo da Huffington Post a cura di Federica Olivo. 9 decessi, come sapete, per overdose nel 2020. Il GIP ha archiviato così il caso di Modena dopo le rivolte del marzo 2020. E il caso è stato liquidato con una ordinanza di archiviazione datato 17 giugno. Nessuno si può considerare responsabile, nessuno merita il giudizio per la morte di 8 dei 9 deceduti nel carcere di Modena. Restano però dei punti oscuri su quello che successe l'8 marzo 2020, mentre il paese si chiudeva per la prima ondata di Covid, tra l'altro. Infatti, i detenuti, e questa è la ricostruzione dei eventi, sono morti dopo aver assunto notevoli dosi di metadone di cui erano riusciti ad appropriarsi durante la ribellione. Per la procura hanno raggiunto la sostanza recuperando la chiave da una cassetta di sicurezza che è stata forzata. Alcuni reclusi, dopo l'assunzione del metadone, hanno perso la vita all'interno del carcere di Modena. Altri sono morti mentre, nonostante non stessero bene, venivano trasferiti in altri istituti e tutto è accaduto nel corso di 60 ore, minuto più minuto meno all'incirca. Per la magistratura su questa storia può essere scritta la parola fine e non è così invece per gli avvocati che hanno seguito il caso. Si tratta del legale di Antigone Simona Filippi, il garante dei detenuti Giampaolo Ronsisvalle e l'avvocato Luca Sebastiani, che hanno fatto opposizione alla richiesta di archiviazione. L'opposizione però non ha trovato alcun accoglimento, ma gli avvocati non hanno intenzione di fermarsi. Siamo già al lavoro, hanno detto, per predisporre il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo la fortuna di collaborare con alcuni tra i più illustri professori accademici e avvocati che credono in questa battaglia e che daranno il loro contributo al fine di consegnare dinanzi alla Corte di Strasburgo un atto di assoluto rilievo, hanno spiegato. Tanti però, come dicevi tu Antonella, sono i punti da chiarire e lo ha detto anche l'avvocato di Antigone Simona Filippi parlando dei fatti di Modena. Se una persona detenuta è in overdose, ha detto, l'unica cosa che si può fare è ricoverarla. Questi detenuti invece sono stati caricati su un mezzo e trasferiti. Ciò è orribile. E le zone d'ombra su quanto accade nel penitenziario seguono almeno due filoni. Il primo riguarda la situazione del carcere nelle ore in cui è scattata la rivolta, quindi il sovraffollamento, pochi agenti all'interno della struttura e tanto, troppo metadone disponibile. È inspiegabile anche questo modo in cui lo hanno raggiunto anche i detenuti. E il secondo filone riguarda il ritardo nei soccorsi. Chi ha seguito il caso da vicino spiega alla Huffington Post che alcuni detenuti hanno iniziato a stare male per l'assunzione del metadone nel primo pomeriggio. Eppure i soccorsi, almeno per le persone che poi sono decedute, si sono resi operativi solo alcune ore dopo. La domanda è, a questo punto, se i soccorsi si fossero attivati in tempo per tutti i detenuti che erano in difficoltà, sarebbero potuti essere salvati? Per la magistratura italiana questo interrogativo non è degno di risposta. Per la Corte di Strasburgo, invece, potrebbe essere molto diverso. Quindi noi ci auguriamo, con la svolta delle indagini sul pestaggio di Santa Maria Capua Vetere, che ha riacceso un lume anche su queste notizie di Modena, che si possa tornare a far luce anche su quanto avvenuto e si ritorni a fare giustizia. Hai ragione Caterina, queste sono notizie molto gravi, molto pesanti. Però ti chiedo a questo punto di lanciare il solito brano dei The Beatles, immagino. The Beatles con The World, perché anche loro hanno fatto, si sono chiesti il senso sulla vita, e la parola anche per loro è l'amore. Ma ascoltiamo questa canzone. Rieccovi, bentornati sulle note dei Beatles. Siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Il nostro filone delle notizie continua con una finestra sul mondo dalla Sierra Leone, ma una notizia sportiva, vero Antonella? Sì, sarà perché siamo negli europei, ma questa settimana siamo sempre a parlare di sport. E parliamo infatti di una imprenditrice che si chiama Isha Johansis, che guida il mondo del pallone in Sierra Leone. Tra le molte difficoltà, accuse velenose, certo è che fare successo ed essere donna, soprattutto in Africa, ma non solo, non è una cosa facile. Tra l'altro il calcio in Sierra Leone è una passione tormentata, perché pensa, Caterina, che per oltre 10 anni, dal 1991 al 2002, il campionato professionistico è stato cancellato a causa della guerra civile. Dopodiché nel 2013-14 l'attività è stata sospesa e la successiva annullata per l'epidemia di Ebola. Poi, ovviamente, come un po' per tutti, è arrivato il Covid e il rischio dei contagi ha sospeso le attività. Comunque, le ricorrenti interruzioni hanno fatto fuggire dal paese molti campioni, anche Mohamed Kallon, eroe nazionale, che poi arrivò a indossare la maglietta dell'Inter, e insomma è andato via, e come tanti spettatori, sponsor, e qui molti club hanno chiaramente dovuto dichiarare fallimento e chiudere. Ma forse la notizia che ha più scosso gli appassionati del pallone è la vicenda giudiziaria proprio di Isha Johansis, la signora del calcio sierranese, alla quale hanno, diciamo, contestato il fatto di essere stata corrotta, ma comunque sono due fazioni diverse. C'è chi parla di corruzione, c'è chi dice invece che è una santa, come spesso succede in queste cose. La sua unica colpa, qualcuno dice, è quella di essere una donna dalle qualità straordinarie che ha messo in ombra gli uomini sul terreno di gioco a loro più caro, che è il calcio. Per l'appunto, cioè per il mondo del calcio è principalmente maschile, non deve essere stato facile arrivare a certi vertici. No, hai ragione Caterina, è proprio così. Ti sembrerà strano, però Isha Johansis non è l'unica donna del calcio in Africa. Lei ha 56 anni, è diventata nel 2013 presidente dell'associazione calcistica della Sierra Leone, è una delle poche donne al mondo a dirigere un'associazione calcistica nazionale. Però insieme a lei c'è anche Lidia Nsekera, ex presidente della Federazione de Football du Burundi, e Izetta Sombo-Wensley, già capo della Liberia Football Association. E in uno sport dominato fondamentalmente dagli uomini a livello globale, curiosamente l'Africa vanta il primato dei vertici rosa. C'è anche la senegalese Fatma Samba Diouf Samoura, che è l'attuale segretaria generale femminile della FIFA. E Forbes, tra l'altro, l'ha classificata al numero uno nella lista delle donne di sport più potenti al mondo. Tutte queste donne vantano ovviamente dei curricula prestigiosi e notevoli capacità dirigenziali, per forza, se no non sarebbero arrivate al punto in cui sono, ma ovviamente hanno dovuto ingaggiare durissime lotte per conquistare e difendere un posto di potere nel mondo del calcio, tra virgolette, anzi lo possiamo dire apertamente che è tipicamente maschile. Tutti hanno affrontato complotti, campagne stampa denigratorie, colpi bassi, eccetera, ma Isha Johnson ha avuto anche un problema più grosso, un processo penale da affrontare, e ad accusarla di appropriazione indebita è stata addirittura la commissione anticorruzione istituita dal governo di Freetown, secondo cui la donna avrebbe sottratto dai conti della federazione calcistica $5,000, poi usati per rimborsare il prestito, un prestito al marito. E com'è finita? È finita che il tribunale ha prosciolto Isha Johnson, che è rimasta in carica ai vertici del calcio. La vicenda ovviamente ha diviso l'opinione pubblica, e però c'è anche da dire che la Johnson si è fatta conoscere in tutta l'Africa per le sue doti non solo imprenditoriali ma anche per l'impegno civile. Infatti nel 2004 ha fondato il Football Club Johnson con l'obiettivo di far tornare sui campi da gioco i ragazzi rimasti traumatizzati dalla guerra civile. Nel 2006 ha fondato il Pink Charity Fund per combattere il cancro al seno, e nel 2008 ha promosso l'imprenditorialità femminile istituendo il premio Women for Excellence. Grazie Antonella, e cosa ne dici di lanciare uno stacchetto virtuoso e un brano? Sì, dopo lo stacchetto virtuoso ascolterete sempre la nostra Raffaella Carrà, che purtroppo ci ha lasciato da pochissimo. È un brano del 1971 e si chiama Tuca Tuca. Divertitevi. Liberi Dentro e Duradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. Cantieri Meticci per Eduradio ha guidato dei laboratori di narrazione, di scambio di storie e di canto. Noi di AVOC abbiamo continuato a distanza i laboratori di scrittura che conducevamo in presenza in carcere. POMA, il centro di formazione professionale, che insieme ai suoi allievi ha curato per Eduradio la rubrica di Chef al fornelletto. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Mi piaci tanto, tanto. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piaci. Mi piaci. Mi piace. Stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piace, ti voglio. Lo sai cosa voglio da te? piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Ballo che faccio con te, ti voglio. Ti voglio. È tanto bello star con te. E rieccovi, bentornati sempre sul nostro programma Liberi Dentro di Radio TV dopo la pausa musicale. La seconda parte della nostra puntata è sempre dedicata allo spazio con l'ospite e oggi con noi c'è Rosanna Sirignano. Buongiorno. Buongiorno. Sempre la nostra esperta di cultura e spiritualità islamica. Dopo aver parlato di educazione, questa volta parliamo del concetto di fratellanza e come sempre andiamo alle radici della lingua. Io ti chiedo di indagare con noi il significato della parola fratellanza nella lingua. Beh sì, il concetto di fratellanza è un concetto che prima di tutto noi ritroviamo nella famiglia. E quindi anche la parola araba, che è ikhwa per dire fratellanza, per dire fratello si dice akh, per dire sorella ukht, ma insomma è una radice che ci riconduce a due persone che sono nati dagli stessi genitori. Quindi essere fratelli anche nel senso comune vuol dire appartenere ad una stessa famiglia, avere una stessa origine. Tuttavia però questo che può sembrare un concetto bellissimo, se ci pensiamo è un concetto anche non inclusivo, perché se io e persona X abbiamo gli stessi genitori, siamo fratello e sorella, ma ciò vuol dire che chi non ha gli stessi genitori, ecco, chi non fa parte di questo legame di fratellanza ne è escluso. E questo concetto in effetti passa anche sul piano simbolico. È interessante che questa radice, questa parola, che si traduce esattamente come fratello o fratellanza, nelle fonti islamiche, sia nel Corano che nelle tradizioni successive, indica sempre la comune appartenenza ad una stessa fede. Quindi i fratelli e le sorelle sono in effetti i musulmani e le musulmane. Nel mondo arabo, e devo dire che questo è molto bello, quando entri in un negozio, no, e sei visibilmente musulmana, come lo sono io, è bellissimo perché non ti chiamano signora, ma ti chiamano ukhti, cioè sorella, che tra l'altro questo significa anche ukhti, significa sorella mia, come se fosse, no? Ed è molto bello, no? Perché è un modo anche strano che noi magari in Italia potremmo percepire come non educato, però ecco, si stabilisce questo legame quasi familiare. Allora, passando invece dalla lingua al piano spirituale, cosa si intende per fratellanza nella spiritualità islamica? Posso essere fratello con chi non appartiene alla mia cultura, al mio credo? Ecco, appunto, questa è una bella domanda, perché apparentemente sembrerebbe di no, ma dobbiamo ritornare, secondo me, al concetto della comune origine. E lo stesso Corano, appunto, ci dice che tutti proveniamo da una stessa origine. E questa è un'ottica teologica monoteista che insomma ci mette d'accordo sia tra cristiani e musulmani, ma anche ebrei. Avere la stessa origine significa essere creati dallo stesso Dio. Anzi, nel racconto della Genesi, come quello coranico, deriviamo tutti da uno stesso uomo, Adamo, ovviamente non da intendersi uomo in quanto maschio, ma in quanto essere umano. E quindi riportare l'attenzione a questa comune origine, avere comuni genitori umani, avere una comune fonte divina che ci può aiutare ad estendere il concetto di fratellanza, che da fratellanza esclusiva del gruppo di religioso diventa, e cito anche Papa Francesco, una fratellanza universale. Sono concetti molto diversi. Io penso che nel mondo di oggi l'unica fratellanza, diciamo anche utile, sia quella universale. Grazie Rosanna, e dopo parleremo del lato opposto della fratellanza, nel senso te lo spiegherò dopo il brano musicale che lanci tu. Bene, facciamo Come Together dei Beatles. Shoot. Bentornati sulle note dei Beatles. Ti dicevo, Rosanna, mi piacerebbe parlare del lato opposto della fratellanza, nel senso che potrebbe avvenire che chi non appartiene alla mia cerchia di credo, se io sono musulmana, si possa considerare mia sorella o mio fratello, e se sì, come può avvenire tutto questo? Hai anche qualche aneddoto vissuto? Ora, sicuramente avere la stessa fede, lo stesso modo di praticare, quindi avere questo legame comune così forte, rende il rapporto speciale. Ma in realtà ci sono tante altre cose che noi abbiamo in comune con l'altro, sia che preghiamo in un modo, sia che preghiamo in un altro, al di là di come noi immaginiamo il mondo, veniamo comunque tutti dalla stessa origine, siamo fatti tutti, come ci dice anche il Corano, di argilla. La stessa parola Adam in arabo, deriva da una radice semitica che appunto vuol dire terra, no? Siamo fatti della stessa terra, e quindi è questa comune appartenenza, cioè pensare alle persone come delle creature di Dio, ci può aiutare in un'ottica di fede a considerarle esattamente come qualsiasi altra creatura, a rispettarle, a considerarle, ecco, come fratelli e sorelle in quanto appartenenti alla stessa enorme famiglia umana, no? E per quanto mi riguarda, ecco, io dove vivo, per esempio, non ho una comunità islamica di riferimento. La maggioranza delle persone che mi circonda, teoricamente non potrei io considerarli fratelli e sorelle. Ma dove sta la sorellanza o la fratellanza? Quando il vicino di casa ti dà una mano, quando io per esempio non guido, ma ho intorno a me una rete di persone, nessuna di loro è musulmana, che puntualmente mi supporta quando devo raggiungere dei posti lontani, quando mi trovo insomma non a casa mia e per esempio ho bisogno di pregare e sono a casa di persone non musulmane, subito mi forniscono una stanza, no? Capitano queste cose, no? Di fornirmi una stanza o addirittura un pezzo di stoffa che io posso utilizzare come tappeto, no? Questa alla fine è la fratellanza e la sorellanza, cioè aiutarsi gli uni con gli altri senza pensare io sono meglio, io sono superiore a te, perché qui che c'è proprio, ecco, la radice poi dell'odio che ci fa vivere male. Io ti ringrazio sempre, perché con questa si conclude un po' il percorso che abbiamo fatto con te, dicevo, da gennaio, dove abbiamo approfondito la cultura e la spiritualità islamica con pillole dedicate. E tu però condurrai un laboratorio, ovvero una rubrica. Sì, ci vedremo ancora qui per Eduradio, naturalmente, per creare insomma questi spazi di conoscenza sulla spiritualità e la cultura islamica. Perfetto, e un brano ora lo lancio io, ci salutiamo, grazie di tutto Rosanna, con Gaber, La Libertà, a presto. Grazie a voi. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà, la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. Nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà. E eccovi, bentornati, ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento tra poco con la terza puntata Jailhouse Rock. Vi ricordo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com, oppure inviandoci una posta a Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. Un saluto a tutti voi, da tutti noi, Enea Flacco e Antonella Cortese, Ignazio De Francesco ovviamente, me, Caterina Bombarda. Ci rivediamo domani sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.